gira canale 10, nessuno ascolta qua, cambio. Non ci sono, tutti quei critici, oggi sono al calduccio, ci sono messi già sotto le coperte, mangiato il brodino.